Di giorno viva e la notte intima. Di lei amo il silenzio quando dorme. Dentro di lei c'è un mondo, anche se piccola, ancora più bella quando il sole sorge. Cresciuto per le vie della borgata, dove ogni vicolo è casa. Mi mancherà se un giorno cambierò strada, ma il suo ricordo resterà con me ovunque io vada. Borgo di antichi sapori e buon vino, i primi calci al pallone in piazza San Martino. Figli dello stesso cielo e padroni del proprio destino, porto con me il quartiere in ogni cosa che scrivo. L'aria fresca al mattino, la pacca sulla spalla d'un vero amico, il profumo del pranzo della domenica, il buongiorno dato al vicino. Stammi vicino adesso che sono cresciuto, mamma borgata. Ti sto scrivendo la mia poesia urbana. Ti vedo mentre mi stai guardando affascinata, adesso che la famiglia si è allargata. Questa va per chi è fiero di esserci nato, con il ritrovo sotto il porticato, il dibattito tra la politica ed il campionato, le passeggiate sopra il ponte di ferro illuminato, i vecchi racconti, che quasi sembra di esserci stato, e le barzellette ed i proverbi del passato. E mentre il tempo scorre a mano, impari a capire cos'è sbagliato. Nasce sulle sponde del Frigido, a un passo dalla montagna, non basterebbe una vita per raccontarla. Viaggiatore, la strada non sbagliarla, che al borgo del ponte inciampa, va dritto fino in Francia.